GR Europa. Troppe lobby nei palazzi della politica europea. Sono oltre 15.000 i lobbisti solo a Bruxelles. Un saluto da Gigi Donnelli, ne parliamo tra un momento con la nostra Anna Marino. Prima però le ultime notizie in arrivo da Bruxelles sulla crisi in Mali. I ministri degli esteri europei hanno dato il via libera alla missione di addestramento militare in Mali. L'Italia parteciperà con 24 militari al massimo. L'Unione Europea è compatta a fianco della Francia, anche se non tutti i paesi percepiscono allo stesso modo la priorità Mali. Il filo con Bamako è direttissimo e non passa solo per Parigi. L'idea è far partire presto la missione europea di addestramento di 3.000 soldati maliani. Formazione niente più, si tratta di dispiegare sul terreno 450 militari europei, di cui 200 istruttori, a metà febbraio. Una missione di ricognizione potrebbe partire già la settimana prossima. E poi elicotteri, equipaggiamenti di telecomunicazioni, veicoli, uniformi, centro di assistenza UE sul posto. Antonio Poglio Salimbeni da Radio Coro, per Radio 24 del Sole 24 Ore, Bruxelles. Dalla metà del 2011 l'indice del clima di fiducia dei consumatori in Italia e Spagna ha segnato un calo più marcato rispetto agli altri paesi dell'Eurozona, lo scrive la BCE nel bollettino di gennaio. Sono oltre 15.000 e hanno fatto di Bruxelles la loro capitale operativa. Alcuni parlamentari europei denunciano, sull'azione dei lobbisti c'è un deficit di trasparenza. Anna Marino. Un esercito di 15.000 persone che mette a segno colpi a ripetizione, quello dei lobbisti a Bruxelles, ma a volte valicano i confini degli interessi collettivi, non solo aziende ma anche regioni, enti locali di tutta Europa, associazioni di categoria nazionale europee, ONG e operatori sociali, centri di ricerca, rappresentanti di paesi extraeuropei. Lavorano per influenzare il processo legislativo europeo salvaguardando gli interessi di chi rappresentano e gli effetti arrivano anche in casa nostra. Circa l'80% della normativa italiana deriva da regolamenti e direttive europee. A volte però alcuni lobby industriali sono contro la salute dei cittadini europei, come spiega l'europarlamentare Monica Frassoni. Le lobby non sono illegali, devono però agire in un regime di trasparenza. Il caso più eclatante è quello della legge sull'inquinamento dell'aria. Questa direttiva, che è stata proposta nel 2004-2005 dalla Commissione, anche quella ha visto un impatto molto forte da parte dell'industria, che ne ha diminuito e annacquato i termini. Da allora il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato delle regole di condotta, bisogna che le lobby siano registrate, che si dica chi sta dietro sostanzialmente queste lobby. Invece il punto sul quale non abbiamo ancora vinto è quello della trasparenza sui fondi. L'adesione al registro unico per le società di consulenza e di lobbying è volontaria, non ancora obbligatoria, ma necessaria per accedere al Parlamento europeo, e parlamentari e commissari devono dichiarare le somme ricevute oltre una soglia che è bassa, ma anche i contatti avuti con i lobbisti, che possono avvenire solo negli uffici e non al ristorante. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. La plenaria di Strasburgo ha approvato a larga maggioranza l'accordo di partnership tra l'Unione Europea e l'Iraq. Un accordo storico, come è stato definito dal Parlamento Europeo, in quanto è il primo in assoluto con Baghdad. Obiettivi del trattato: il potenziamento della sicurezza e della stabilità, oltre all'accompagnamento nella transizione democratica irachena. Bene, con questo è tutto da Gigi Donnelli, Fabio Cantadori in regia. GR Europa torna domani alle 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.